qual è il titolo della canzone? Rasta Bomba. Rasta Bomba. Rasta Bomba. Rasta Bomba è il titolo del brano che adesso Alfredino ci farà ascoltare. Oh, qui no. Ah, ma ce la fa ascoltare. Sì, dai, è qui. Non, ormai. Rasta Bomba, se, ascoltiamo Alfredino. Oh, oh, papa bomba, cacca, cacca, papa bomba. Oh, oh, e bomba, papa, cacca, cacca, bomba, papa, papa. La papa, cacca, bomba, papa. E bomba, papa, cacca, bomba. Ecco, basta, basta, Alfredo, basta. Rasta bomba, rasta papa, ma che è? Ma è il suo mondo, ma bomba, papa, di che ne parla un bambino di 4 anni, Greg, scusa, Ma ne parlasse con quelli di 4 anni. Ma te, ma... di qui a parlare con... Maledetti bimbi minchia che infestate sto mondo, nati da uno sticchio fecondo, la rottura di un condom, ingrippati con ste mode 10 e lode. Ma come disse Bob, la rivoluzione non si prepara ma esplode. Prima ingrippato volevi fare rap rap, poi iniziato a campionare clap clap, poi ad urlare bongo clat clat. Mo indeciso ti masturbi su Italia Sat, chi sti grassi, vogliono fare un ragamuffin. Fanno sti passi, sono da spennare come Daffy, li prendere a schiaffi, seguono i detach per ammagliare bagasce, voglio incantare come Ash. Agumati come rubber, original clubber. Qual era sta fai? Sembrate un gruppo di gabber. Basta un rasta, la chiamate dancehall. Quale regga soul? Andatevi a perciare col crystal ball. Voglio fare cacca al sedio, ma non direi mica sul serio. Magari in una stanza coltiva cacca, capelli non li tagli mai. Voglio fare cacca al sedio, ma non direi mica sul serio. Pantaloni piccantoni, io brucio Babilonia e non compro latroni. E poi la cosa più assurda della faccenda è che parlano di rispetto smerdandosi a vicenda. Sei un controsenso ma ti basta la ganja. Sei come Harrison Ford che fa lo spot della lancia. Com'è chi dice original, cantando sui rhythm. Com'è chi vive al buio, prestate gli occhi di Riddick. O chi dice Rastafari, segue i miei passi. Coglione sei bianco, gli stai sul cazzo a Selassie. Che sia chiaro, denzolaro per carità, non ce l'ho con tutti ma con chi urla. Ciao! Sti bimbi minchia e sta cultura che noi apparterrà. Sti film di giamaicani che avendo di ca. Voglio non fare i bad, mi solo la spaccio e bitch. Sono come i raffusi ma spesso sono più kitsch. Mio figlio è rasta, non si lava e guarda le pupille. Rastafari, signora, non so che dirla. Voglio fare cacca al sedio, ma non direi mica sul serio. Magari in una stanza coltiva cacca, capelli non li tagli mai. Voglio fare cacca al sedio, ma non direi mica sul serio. Pantaloni piccantoni, io brucio Babilonia e non compro latroni. Io faccio reg, reg. Ma lo fai male, lo fai male, ma che reg, bomba. Aspetta, faccio canzone io.